and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati al programma che non esiste. Un saluto dal fantasma di Coppa. La stai dicendo? E c'è anche il fantasma di Drago. Vabbè. Oggi è venerdì, oggi è tutto virtuale, dai, Drago. Smettila di fare il buffone, Kappa. Bentornati a Chiedo Asilo, 160esima puntata. Ormai siamo quasi a livello di Un Posto al Sole. A livello di soap-opera abbiamo Un Posto al Sole. Esatto, noi siamo a quel livello. Dai, dai, allora. Al tuo livello invece cosa c'è? Sei un bassotto. Comunque, Drago, dai, già che non siamo in onda, facciamo finta di, non so, facciamo qualcos'altro. Ma, cosa, ma come non siamo, siamo in onda? Ma sì, che siamo in perché onda. Perché non esiste niente. Siamo in onda, io ti avverto, è così, certo, siamo in onda. Ma se è venerdì! Io, Drago, non capisco. Abbiamo detto mille volte che il venerdì è stato abolito. Non c'è più, puff, svanito, basta. Quindi mi chiedo che cosa ci facciamo qui adesso, che tra l'altro non c'è neanche un adesso, non esatto, essendoci non venerdì. Non essendoci venerdì, tu non potresti essere qui. Quindi, sai, vabbè, che, ciao, sai, Drago, che capa, i primi sintomi della pazzia hanno sempre a che fare con delle strane convinzioni che si impatroniscono della mente. Impatroniscono di mente. Quindi, per diventare patrone di mondo. Calmati, calmati, vedi di rinsavire, di fare questa puntata, poi tranquillo che puoi anche andare al lago, è venerdì, no, oggi, no? È volgare lavorare di venerdì, te la capito. Metto giù così, è volgare, capito. Cioè, che poi tocca pure finire in coda con tutta l'altra gente che deve andare via, in macchina, fermi, tutti, venerdì sera, che diventa praticamente un lunedì mattina. Vabbè, allora, siamo nel 2011, le cose ormai girano così, Kappa. Se vuoi goderti le strade vuote, non devi lavorare e devi farti portare in giro da un autista in marsina, se no... Da un autista in marsina, se no fai come tutti gli altri e te ne stai zitto. Ma io lo dico anche per te, per Pietro, per Claudia. Hai capito, ragazzi, anche smettetela per voi. Smettetela di vivere come gli altri, rivoluzionate le vostre vite. Certo. Venerdì non si lavora, basta, basta internet. Cosa fai lì su internet? Niente. Ma basta, tutti via, non siete d'accordo? Vabbè, allora basta, siamo quasi alla ricreazione, sai, Kappa, non abbiamo nemmeno ancora cominciato. Cominciamo. Sei pronto? E ora, bambini, ricreazione! Allora, sei pronto, Kappa? Per cosa? Per il weekend. Volentierissimo. Ma cosa? Il weekend. Volentierissimo, che risposta è? Scusa, ti ho chiesto, sei pronto per il weekend? Volentierissimo. Ma al limite puoi dire prontissimo, ma non volentierissimo, che poi dovrebbe essere volentierissimi. Ma come volentierissimo? Volentieri, volentieri finisce con la I, no? Quindi allora... il superlativo assoluto di volentieri... deve essere volentierissimi, perché male. Volentierissimo, volentierissimo è il superlativo assoluto di volentiero, che non esiste. Vai fuori tema, ma, queste cagate. Ma quale tema, scusa? Punto, non lo so, volentierissimo. Bambino Alberto, salvaci tu dalla deriva sintattico-semantica, qui ci siamo incagliati. No, niente, niente, volentierissimo. Volentierissimo. Ma cos'è sta storia del niente niente? Ma no, niente, niente, dai, niente, niente. Va bene che lo dici sempre? Ma per, siccome Drago è un pezzo di legno... Vabbè, temevo di peggio. Legno, non sa trattare con i bambini, capito? Con te parla sempre di cose da grandi. Ma non è vero, sono sei mesi, sette, non so quanti, che ancora non hai capito. E quindi tu chiedi e io dico niente, niente. Vabbè, capito? Dai, se Drago si rivolgesse a te nel modo adeguato, ma io, non appunto, ci sarebbe bisogno di questo siparietto. Vabbè, niente, anche neanche niente, tu ti fai capire, Kappa. Che il problema, più che nel modo di esprimersi, forse risiede nel bambino bergamasco. In chi? Vabbè, ma oggi proprio non ci sei. Bambino bergamasco, bambino bergamasco, chi è? Ma siete voi che parlate difficile! Di un bambino bergamasco che io non conosco neanche. Come faccio a capirvi? Bambino Alberto, il bambino bergamasco saresti tu. Io? Ma sì, no? Ma se sono di Milano! Ma non c'è. Io non so nemmeno dov'è Bergamo. So solo che la squadra di Bergamo è l'Atalanta, che è la stessa maglia dell'Inter. Oh, bravo. E allora mi sta sui coglioni. Bambino Alberto, no, scusa. Allora, vedi che qualcosa lo sai, quindi bambino bergamasco. Ma insomma, perché bambino bergamasco? Perché Alberto, Berto, Bergamo, bergamasco. Potremmo continuare con Donizetti, capite? Diventa bambino Donizetti. No, ma niente, niente. Ma allora sto niente, niente. No, niente, oggi l'intervista non parte, direi di arrenderci qui. Oh, volentierissimo. Vabbè, tu se c'è da smettere di fare l'intervista, sei il primo a essere contento. Volentierissimo. Vabbè, ma allora, sarebbe? Dai, allora adesso lo smettiamo qui. No? Dai. Tanto non abbiamo niente da dirci. Vabbè, oggi quindi... venerdì, bambino Alberto, venerdì. Cosa vuoi stare lì a fare l'intervista, il colloquio? No, vabbè, dai, lasciaci perdere, così. Vai. La settimana è finita, le nostre strade si dividono. Ma sì, ma Kappa, non è così. Hasta la vista sempre. Sì, vabbè, no, quella era la vittoria. Vabbè, sempre. Ma guarda che per me è uguale. Cioè, io non è che ho bisogno di stare con voi. Oh, infatti. A me basta avere il mio amico Gildo, che quando voglio che ci sia, c'è. Vero, Gildo? Vero, Gildo? Eccolo, vedi che qua. Sì, però Gildo, io te l'ho detto mille volte. Smettila di ripetere le ultime parole che dico io. E che dico io? Uè, niente da fare. Sarai anche un amico. Però sei tanto duro di comprendonio, eh? Di comprendonio! Cioè, basta. Allora, senti un po', Gildo. Ci mangiamo una merendina o no? Volentierissimo! Uè, però quando dici così, sai che mi riempi di entusiasmo, eh? Volentierissimo! Sì, volentierissimo! Volentierissimo! Sì, ok, Gildo, capito. Ma basta! Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora, facciamo che io facciamo il freestyling e tu facciamo il coro. Volenterissimo. Gildo, che noia mortale giocare da solo a battaglia navale. Gildo. Gildo. Sono triste e solitario. Gildo. Facciamo che tu eri... Gildo. Il mio amico immaginario. Freestyling. Gildo. Vai con la base. Gildo. Gildo. Sei come un fantasma. Gildo. Nessuno ti vede. Gildo. Ma c'hai la voce con l'asma. Gildo. Gildo. Siamo culo e camicia. Gildo. Io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il coro. Volentierissimo. I wanna get a fight freestyling. Gildo. Facciamo merenda. Volentierissimo. Giochiamo rinvii. Volentierissimo. Montiamo una tenda. Volentierissimo. Giochiamo la Wii. Volentierissimo. Facciamo una festa. Volentierissimo. Chiamiamo due escort. Volentierissimo. Anzi, due a testa. Volentierissimo. Però paghi tu. Volentierissimo. Gildo. Allora, Gildo, facciamo così. Questa volta paghi tu. Prima di salutarci, risentiamo ancora una volta la dichiarazione che il bambino caro figlio ha reso all'infedele, perché in quella dichiarazione ha detto paro quello che noi andiamo dicendo da mesi. E quindi dobbiamo risentirlo. Certo, senti qua, Kappa. L'atteggiamento vittimistico è l'atteggiamento dei bambini o degli adulti infantili, che hanno atteggiamenti infantilistici. L'infantile è mica fesso, però. Arrivo subito. L'infantilismo comanda. Non significa giocare con l'ego. Significa, come posso dire, una regressione della personalità, e l'infantilismo è uno dei connotati tipici delle personalità manipolatorie. Hai capito? Parlava anche di te, eh? Di me? Sì. Ma io non lo conosco, il bambino caro figlio. Non importa. Caro Drago, io il bambino caro figlio non lo conosco. È più un caro figlio di... No, non importa. Quando un magistrato, senatore, scrittore parla, parla per tutti, sa tutto, vede tutto e giudica tutto. E così voi, bambini all'ascolto, fate tesoro di quello che dice il bambino caro figlio e sentitevi stupidi. Un bel modo per finire la settimana. Bravo, complimenti. Ogni tanto un bagno di umiltà fa anche bene. Basta questo cazzo. Vabbè, sono infinite le variazioni della linea di basso di un pezzo come questo. Basso col cazzo. Ringraziamo e salutiamo. È venerdì. Il momento dei saluti, quindi ringraziamo questa settimana un tandem composto da Pietro e da Pietro, no, come si chiama? Da Carmelo e da Pietro, che in due faranno quello che devono fare di solito mezza persona. Oh, loro fanno allora, due, no? Mezz'ora per dire Pietro poi e invece, Carmelo. Invece poi c'è la bambina Claudia, che ha assistito a tutti. Grazie. E che farà poi in modo che i due bambini suddetti finiscano di montare le puntate, perché siamo registrati. Sì, ma basta! Dobbiamo ringraziare anche quelli a Barlumen, dai! Quindi il bambino Guido Bertolotti e il bambino Alberto Caserini. Poi basta, cosa devo ancora dire? Basta.